È il giorno delle elezioni in Ruanda, il D-Day per questo piccolo paese africano, una spy story in salsa vietnamita ma ambientata a Berlino e le prove muscolari di Kim Jong-un. Benvenuti in questo programma. Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci. This case in Germany, as I began by saying to you, is devastating for a number of reasons, and one of those reasons is these elections will confirm his leadership. He could now lead for another 7 years. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questo è Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi, questo venerdì, allargheremo i nostri orizzonti e porgeremo lo sguardo su quello che accade al di fuori dei confini italiani. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Tali e Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me anche questa puntata, e Pietro La Corte, che le darà musica e ritmo. Le coordinate per interagire con noi, ovvero fare commenti oppure domande, perché no, anche le critiche: WhatsApp 349-238-6666, gli SMS allo stesso numero, Twitter potete cinguettare all'account Giampaz oppure Nessun Luogo 24, e poi c'è Facebook, la nostra pagina è Nessun Luogo è Lontano - Radio 24. Se vi piace il programma cliccate mi piace, e poi c'è anche la diretta. Allora, oggi vi dicevo è la giornata del voto in Ruanda e lo seguiremo con un occhio anche alla storia, quel tragico 1994, perché l'ombra lunga di quel passato spiega ancora tante cose di oggi. Prima però vi voglio raccontare una storia, e questa storia inizia a Berlino. È il parco di Tiergarten, non lontano dalla cancelleria. È una mattinata calda, come calda può essere Berlino in questo periodo. È il 23 di luglio del 2017 e sono le 10:40. Un uomo dai tratti orientali passeggia tranquillo tra le famiglie, qualcuno che fa jogging. L'uomo, sui 50 anni, è tornato a Berlino dopo parecchio tempo. Si guarda attorno incuriosito, ma non si accorge di tre uomini. Improvvisamente tre figure armate sbucano dal fogliame, armi in pugno lo incappucciano e lo caricano su una macchina che si allontana veloce. L'uomo è Trinh Xuan Tan, 51 anni, ex dirigente di Petro Vietnam ed ex funzionario del Partito Comunista Vietnamita. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale per perdite di bilancio di 125 milioni di dollari. Ma l'uomo era anche un richiedente asilo in attesa di risposta. La commissione lo avrebbe dovuto ascoltare il giorno dopo. Gli uomini che lo hanno rapito sarebbero funzionari e agenti dell'ambasciata vietnamita. E le armi? Le armi le avrebbero portate in Germania gli agenti vietnamiti, in valigette che avrebbero evitato i controlli grazie al passaporto blu, quello diplomatico. Immediata la risposta tedesca, che ha chiesto ufficialmente ad Hanoi il ritorno dell'uomo in Germania. Quella stessa Germania che ha profondi interessi nel paese asiatico ed è il partner commerciale principale in Europa. Hanoi ha risposto che l'uomo è volontariamente tornato in patria. Questa è la storia di un extraordinary rendition. E la cosa intrigante è che questa storia non è uscita dalla penna tagliente e creativa di un maestro delle spy story, pensiamo alle Carré, ma questa è una storia vera, abbastanza ignorata dai media italiani, ma che ha avuto alcune riprese sulla stampa straniera. È accaduta qualche giorno fa e ci svela, ci apre uno scenario su un fenomeno, quello cioè dell'esfiltrazione da parte di forze armate di una potenza straniera in un altro territorio. È successo anche in Italia, ma cosa è accaduto veramente? Torniamo a questo specifico caso. L'abbiamo chiesto a Anthony Gleese, che è direttore del Centro Studi Sicurezza e Intelligence dell'Università di Buckingham. A lui abbiamo chiesto perché il rapimento del funzionario del partito vietnamita è un caso così importante e cosa comporta l'eventuale responsabilità dei servizi segreti vietnamiti. Sentite. Questo caso ha colto di sorpresa la Germania e le autorità tedesche. Uno degli aspetti più inquietanti di questo caso, già di per sé inquietante, non è solo che gli agenti dell'intelligence vietnamita abbiano potuto agire e rapire qualcuno proprio nel centro di Berlino, al Tiergarten, a due passi dal Parlamento e dal Palazzo della Cancelleria, ma soprattutto il fatto che fossero armati e che sembra evidente che nessuno sapesse che si trovavano lì. Ora, tutti sappiamo che l'intelligence tedesca, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto affrontare diversi casi di rapimento, ma ovviamente si trattava dei servizi segreti della Germania Est che rapivano qualcuno all'Ovest, mentre per quello che ne so, questo è il primo caso del genere. Quando parliamo di extraordinary renditions, la prima cosa che viene in mente è la CIA e il suo programma, che consisteva nel rapire vari sospetti di Al-Qaeda in Europa per condurli in centri di detenzione. Ma per quello che ne so, nulla di tutto questo è mai successo in Germania. La voce che state ascoltando è quella del professor Anthony Glees, che dirige il Centro Studi Sicurezza e Intelligence all'Università di Buckingham. Come avete sentito, ha sottolineato un paio di aspetti che sono particolarmente importanti in questa vicenda. Da un primo punto di vista, l'aspetto storico, quindi erano accaduti i rapimenti in Germania, ma non in epoca così moderna. E dall'altro c'è questo piccolo problemuccio, per usare un eufemismo, cioè delle armi portate in Germania. Vero, con passaporto diplomatico, però in tempi di terrorismo e di chiusura delle frontiere, insomma, questa operazione di sfiltrazione dà veramente da pensare. Cosa succede in questi casi? Esiste un tipo di procedura standard? L'abbiamo chiesto sempre a Anthony Glees. Gli elementi di questo caso sono particolarmente interessanti perché per essere in grado di schierare degli agenti armati al Tiergarten, al centro di Berlino, prima bisogna procurarsi le armi. E per quanto in Germania sia possibile procurarsi delle armi che provengano dalla Russia o dai paesi baltici, qui ci sono forti sospetti che le pistole siano arrivate in Germania nascoste nelle valigette diplomatiche. Come sappiamo, si tratta di valigette che ogni nazione adopera per fornire dossier riservati o addirittura segreti alle proprie ambasciate in giro per il mondo. Ma la prassi prevede anche un assoluto divieto di riempirle di armi. Per convenzione, i servizi di sicurezza non perquisiscono un bagaglio diplomatico. Funziona un po' come un'intesa reciproca del tipo: noi non perquisiamo le vostre valigie, voi non perquisite le nostre valigie. Ma se davvero le armi sono arrivate con bagaglio diplomatico, si tratta di una faccenda estremamente seria, che potrebbe condurre a gravi ripercussioni tra la Germania e il Vietnam. Inoltre, c'è un altro aspetto in gioco. Quando hai a che fare con gli ambienti dell'intelligence di un paese di tradizione comunista come il Vietnam, non bisogna dimenticare che ci si confronta sempre con un addestramento da scuola KGB. E la prassi adottata dal Vietnam, come da altre nazioni, è che una parte consistente del personale di un'ambasciata è addestrato nell'uso di armi, di esplosivi e in tutti gli altri aspetti più muscolari del lavoro di intelligence. Insomma, mi sembra che in questo caso i vietnamiti abbiano agito con metodi standard del KGB, procurandosi le armi e conducendo un'operazione da manuale, che consiste nell'individuazione, nel rapimento e nel trasporto dell'obiettivo esattamente dove lo volevano loro. Il genere di operazione che magari durante la Guerra Fredda si poteva concludere anche con la tortura e la morte dell'obiettivo. La vicenda per il momento non si è ancora conclusa perché le autorità tedesche hanno iniziato le indagini, hanno chiesto lumi ad Hanoi, la capitale vietnamita, ha fatto sapere che l'uomo è rientrato di sua spontanea volontà. Allarghiamo un po' la visuale, montiamo il grandangolo, come amo dire. Quanto spesso avvengono operazioni del genere? Ovviamente veniamo a sapere di casi eclatanti come questo, ma quante ne avvengono veramente? Sentite Anthony Glees ancora. Non sono molto comuni, certamente non in Europa, con l'eccezione del programma di Extraordinary Rendition della CIA, che però veniva condotto in accordo con la nazione ospitante, per quanto sia imbarazzante da ammettere, specie per paesi come la Polonia, che oggi sappiamo essere uno dei paesi dove la maggior parte degli obiettivi venivano condotti. Ma questo tipo di operazioni condotte su suolo straniero o in clandestinità sono più comuni altrove. Pensiamo al recente assassinio di Kim Jong-nam, il fratello del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. È stato ucciso da operativi nordcoreani a Kuala Lumpur, in Malaysia, in quello che chi, come me, si occupa di questi temi chiama in gergo wet job, ossia lavoro bagnato, perché è un lavoro che implica lo spargimento di sangue. Beh, sì, queste cose succedono. E l'ultima domanda per il professore dell'Università di Birmingham è stata: quanti sono, se ci sono, i numeri su queste operazioni straordinarie condotte in Europa negli ultimi anni? Sentite, perché il dato è interessante. Beh, se si escludono le operazioni condotte dalla CIA dopo l'11 settembre 2001, siamo nell'ordine delle centinaia, quindi parliamo di un numero considerevole. Se parliamo di operazioni condotte da nazioni ostili, allora parliamo di numeri molto, molto bassi. Allora, questo era il racconto di questa straordinaria operazione. Avete capito perché, insomma, i tratti sono incredibili. Il racconto sembra stato scritto da un giallista, da uno scrittore di spy story, invece tutto vero, è successo a Berlino poche settimane fa, nel cuore dell'Europa. Adesso però, lo dicevamo, è il giorno del grande voto in Ruanda e andiamo lì. I think he's the right candidate for this country. He has done very well and the people is appreciating what Kagame has done for this country. Three candidates are battling it out to become the next president of Rwanda on August 4th, but on visibly uneven ground. Incumbent President Paul Kagame, representing the ruling party RPF, has very strong support, if you judge it by the numbers of people. Prima di scendere nelle pieghe di questo storico appuntamento elettorale, storico per un paio di motivi. Quello principale è che il presidente Kagame, uscente 2 anni fa, ha cambiato la Costituzione per potersi ripresentare una terza volta e rischia di diventare, come ha titolato per esempio Al Jazeera poche ore fa, un leader eterno, perché potrebbe, pensate, governare il paese fino al 2034. E sono tanti i motivi di interesse di queste elezioni. Il paese, il Ruanda, è un piccolo paese incastonato nella zona dei Grandi Laghi, ma è un paese cruciale. Allora ascoltate com'è la fotografia di questo paese. Il Ruanda, una popolazione di circa 12 milioni di abitanti, è un piccolo stato incastonato tra Congo, Uganda, Tanzania e Burundi, nella regione dei Grandi Laghi, Africa centro-orientale. Il paese, che ha vissuto nel 1994 uno degli episodi più tragici della storia dello scorso secolo, il genocidio di almeno 800.000 Tutsi e Hutu moderati a opera delle milizie Hutu, si è risollevato negli anni con un'economia che ora è tra le più solide, attraendo investimenti stranieri e lottando contro la povertà. Rimane estremamente dipendente dagli aiuti stranieri. Negli ultimi 15 anni il PIL è cresciuto in media dell'8%, con una flessione negli ultimi anni. Ribattezzato la Svizzera d'Africa, è guidato da Paul Kagame praticamente fin dal 1994. Il leader del fronte patriottico ruandese oggi si ripresenta per il suo terzo mandato. Kagame, colui che mise fine al massacro del 94, è visto da alcuni come il salvatore e il grande motore del paese. Altri ne sottolineano gli aspetti autoritari e ricordano gli arresti arbitrari e l'imbavagliamento dell'opposizione. Allora, questa è la sintetica fotografia del paese africano. Allora andiamo in diretta a Kigali, dove c'è Marco Longari, fotografo per AFP, Agence France Presse. Buongiorno Marco, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, allora, grazie mille. Grazie a te della tua presenza, del tuo contributo. C'è un piccolo ritardo ovviamente di linea, di cui gli ascoltatori ci perdoneranno. Che aria tira Kigali in queste ore, Marco Longari? I seggi si sono appena chiusi, stanno contando i voti. Io sono davanti a un seggio vicino allo stadio Amahoro, che è lo stadio più grande dove stasera ci sarà, dove fermano già i preparativi per la festa, come dire, è un po' una cronaca di una vittoria annunciata qui. Sì. E lo spoglio si svolge nel silenzio più totale, soltanto un nome risuona nelle tende, nelle classi delle scuole che sono adibite a seggi elettorali, ed è Kagame Pol, Kagame Pol, Kagame Pol, non ce n'è per nessun altro. È veramente raro vedere un'elezione anche in paesi dove comunque c'è un leader forte, dove comunque c'è appunto la cronaca di una vittoria annunciata, però vedere che non c'è proprio spazio per nessun altro, ecco, in tutti i seggi in cui abbiamo girato oggi pomeriggio, dopo che hanno chiuso, dopo che le operazioni di voto sono concluse, c'era solo un candidato. Sì. Ascolta, Marco, tu nei giorni scorsi hai seguito anche i comizi dell'opposizione, no? Non soltanto appunto le grandi marce dei sostenitori di Kagame, e sei andato anche nelle zone più rurali, le zone delle campagne. Che differenza c'è fra Kigali, soprattutto la capitale, e le zone rurali invece del paese? Beh, ovviamente la differenza è enorme, nel senso della tipologia degli elettori. Kigali è ormai diventata una città con un certo tenore di vita, che è un po' il centro economico del paese, in cui ci sono molte influenze che vengono da gente che viene da fuori, eccetera. Mentre nelle campagne siamo rimasti tutto sommato in una situazione in cui l'accesso alle informazioni, l'accesso alla diversità delle informazioni non esiste, internet c'è veramente poco, oppure se c'è, ma comunque non è accessibile a molti, la radio ufficiale del Ruanda è l'unica voce di informazioni, e quindi vuol dire, sì, le persone fanno gara per farsi vedere i comizi di Kagame, ma ovviamente sono abbastanza latitanti quando si tratta di andare a vedere uno degli altri due. Certo. E fra l'altro, prima, questa mattina, mentre ero in giro, chiacchieravamo, no, Marco, e mi dicevi che il terzo candidato, un ex giornalista 46enne, Philippe Paimana, tu hai seguito un po' la sua campagna, e c'è un aneddoto che è particolarmente divertente, ma che, come dire, dà la dimensione davvero di questa campagna elettorale. Sì, perché gli altri due candidati, nonostante ci sia una macchina organizzativa, insomma, un po' sui generis, però c'è, degli altri due candidati non si vede traccia, nel senso che non ci sono stati grandi pannelli pubblicitari, grandi affissioni, volantinaggi, eccetera, nella città, tantomeno nelle campagne. Nella città c'era solo Kagame, grandi poster, eccetera, eccetera. Il terzo candidato, Filippo, ex giornalista, fa un po' tenerezza, perché quando arriva a fare questi comizi, in cui l'altro giorno scherzavo con l'agenzia dicendo: guardate, vi sto mandando le foto del comizio del terzo candidato, e sono 12. Uno dice: si va per dire sono 12. No, li ho proprio contati, erano 12. Okay. E insomma, c'è questo assistente che arriva con un pick up aperto, di cui smonta un pannello pubblicitario della campagna elettorale e le mette vicino al candidato, che fa il suo comizio. Perché quando il comizio è finito lo riprende, lo rimonta nel pick up e parte dall'altra parte, che è un po' la dimensione di quello che è la campagna elettorale degli altri. Insomma, sono cose molto piccole, sì, rispetto, sì, alla macchina mastodontica di Kagame. Certo, quindi un candidato d'opposizione, due e due cartelloni pubblicitari che vengono smontati e rimontati. Faremo cenno poi più avanti, Marco, con altri ospiti, su quello che è il retaggio, la tragica eredità ruandese al 94 in poi, e quindi c'è il problema della sicurezza nel paese. Che dispiegamento di forze di sicurezza hai osservato in questi giorni in cui hai seguito la campagna elettorale? Il Ruanda è un paese dove la polizia è estremamente visibile. Se tu prendi la strada che porta fino a Gisenyi, che è il confine con il Congo, c'è un, sì, poliziotto ogni chilometro. Insomma, sono circa 100 e passa chilometri, pensa quanti ne sono. Questo si traduce in un'assoluta sicurezza nel paese. Insomma, io vengo dal Sudafrica, dove tutti quanti sanno che è un paese che, sì, estremamente, dove c'è il crimine, dove cammina per strada, è pericolosissimo, eccetera. In Ruanda tu puoi camminare la notte, in piena notte, con tutte le macchine fotografiche al collo, nessuno ti fila. Sì. Però, ecco, non c'è questa presenza militarizzata nel Ruanda. Il Ruanda è un paese in pace, non ha nemici nelle frontiere, non ha, insomma, scherzi con il Burundi, problemi con il Congo, eccetera, ma insomma non c'è storia, ecco. Sì. La presenza dell'esercito non c'è, c'è una forte presenza di polizia, ma è un'elezione, è un paese africano in cui, insomma, la polizia c'è sempre. Certo. Certo. Marco Longari, tu fai il fotografo, di professione scatti, lavori con le immagini. Io ti seguo su Facebook e sul profilo Instagram e anzi invito gli ascoltatori, l'ho fatto ieri con un post, a seguire Marco Longari, AFP. Ci regali e ci racconti due foto emblematiche, secondo te, di questa tornata elettorale? Sono due immagini che mi ha fatto piacere scattare e che mi piace raccontarvi. Una è stata fatta qualche giorno fa al comizio di Kagame, in una zona lontana da Kigali, nelle montagne, vicino al ridosso del Virunga, che sono i vulcani dove sono i famosi gorilla sì. Rwandesi. Il luogo dove si teneva il comizio era stato al fondo di una pendio molto ripido, cioè una conca dove la gente si riuniva, ma la gente era talmente tanta che ha iniziato a mettersi a strati lungo il pendio della montagna. È incredibile vederli perché erano veramente assembrati l'uno, attaccati l'uno all'altro, abbarbicati sulla montagna, attaccati agli alberi, tutti quanti per cercare di vedere il presidente, che ovviamente non hanno visto perché era lontanissimo, ma insomma certo. Cercare comunque di star lì. Ed è sì. un'immagine che mi è piaciuto scattare perché in qualche modo mi ricordava quanto è cambiato, quanto le cose sono cambiate dalle immagini di Salgado durante il genocidio, in cui appunto c'erano invece le tende dei profughi, di chi scappava dal genocidio, che erano abbarbicate sui pendii delle colline verso Goma, insomma la stessa sì. strada dove stavo io, eccetera. Quindi questa è una delle foto. L'altra sì. foto è invece stata fatta al comizio di Abineza, che è l'altro candidato, il rappresentante del Partito dei Verdi, sì. dove si vede un uomo che sta appoggiato a un muro molto bello, di un indaco molto bello, completamente disinteressato a quello che stava succedendo davanti a lui. Sì. Un po' racconta un po' di rassegnazione, la disparità, diciamo. Che c'è. Guarda, sì. più che l'assegnazione direi che la non informazione, la grande vittoria di Kagame, il fatto che insomma, appunto la sua vittoria sia annunciata, sta nel fatto che se tu esci da Kigali, vai nelle campagne e pronunci i nomi degli altri due candidati, nessuno sa chi siano. Certo. Non ne hanno mai visto la faccia, non hanno mai visto, non hanno mai ascoltato il pensiero, non hanno mai visto un programma elettorale, seppure ci sia parecchio vago negli altri due, ma insomma non sanno veramente chi sia questo qua. E questo signore stava appoggiato a questo muro, di fronte a questo, dall'altra parte della strada c'era appunto il candidato che sgolava cercando di attirare l'attenzione della gente, e lui stava lì e invece pensava ai fatti suoi e non aveva assolutamente proprio l'intenzione di filare. E sarà interessante, Marco, capire invece quanti voti prenderanno i due sfidanti di Kagame. In realtà stiamo assistendo a una grandissima messa in scena, nel senso che, come dicevi tu, l'esercizio democratico in qualche modo è svilito da una presenza ipertrofica di Paul Kagame nella comunicazione, nella garanzia della sicurezza, per cui insomma staremo a vedere, sapremo cosa succederà tra qualche ora, ma il risultato è già dato per scontato. Io ringrazio tantissimo Marco Longari, fotografo di AFP, vi consiglio grazie di seguirlo su Facebook e su Instagram. Grazie mille Marco, buona giornata, buon lavoro e buoni scatti. Ciao, grazie a voi. Allora, 349-238-6666, Twitter, Nessun Luogo 24, oppure Giampaz, la pagina Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, su Facebook siamo anche in diretta. Tra poco con Giuseppe Cioffo, analista di Eurac da Bruxelles, capiremo meglio che cosa significa questo voto e l'importanza di questo paese, guarderemo ancora al genocidio del 94, adesso però l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. When my zamin wopum komboti, when my zamin wopum komboti, when my zamin wopum komboti, when my zamin wopum komboti. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui buona parte del tempo è dedicata alle elezioni ruandesi. Se volete seguire gli ultimi sviluppi, per quanto colpi di scena, come dire, non sono attesi, l'hashtag su Twitter ElectionRuanda2017. Rispondo a un ascoltatore che al 349-238-6666 mi accusa di essere un po' troppo aulico nel linguaggio. Dice che l'esercizio democratico in Ruanda, ho detto, è svilito da una presenza ipertrofica di Kagame. Allora, volevo dire che Kagame, che è al potere ufficialmente dal 2000, in realtà è al potere dal 94, perché quando col suo l'ala militare del fronte patriottico ruandese entrò dal nord, dall'Uganda, e come dire, mise la parola fine al genocidio, ebbene, da quel momento in poi praticamente non fece altro che governare il paese. Allora, 349-238-6666 per altri commenti e, perché no, anche le critiche sono sempre ben accette. Vi anticipavo la presenza di Giuseppe Cioffo, che avete già conosciuto in una delle puntate speciali di luglio di Nessun Luogo Lontano, esperto della zona dei Grandi Laghi, ha vissuto in Ruanda per un bel po' e conosce molto bene il paese, analista per EURAC, che è questa rete di ONG che si occupano dell'Africa centrale. Giuseppe Cioffo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Ciao Giampaolo. Allora, partiamo dal passato, che ci aiuta a capire meglio il presente. Raccontavo di come Kagame intervenne dopo quei tre mesi tragici, orribili. In realtà le parole non ci sono: almeno 800.000 Tutsi, ma anche Hutu moderati, molto spesso viene dimenticato, vennero trucidati con qualsiasi tipo di arma. Una delle armi preferite dalle milizie interamue erano i macete. Quell'ombra lunga del 94 si fa sentire, perché Kagame in qualche modo ha costruito un regime, una carriera politica su quel senso di colpa. C'è chi in maniera maliziosa e forse al limite del cinismo dice: beh, avrebbe anche potuto intervenire prima, ha aspettato. Insomma, poi le speculazioni, come dire, non sono mancate. È corretta secondo te questa lettura? Kagame è così forte, così appoggiato dalla comunità internazionale perché alla fine il senso di colpa per quel quasi milione di morti è troppo grande da affrontare? Ma sicuramente il fatto di aver liberato il paese dal genocidio nel 94 gli ha fatto accumulare una sorta di credito, diciamo, che adesso il governo ruandese spende sia a livello interno, a livello nazionale, che a livello internazionale. Diciamo che a livello nazionale il fatto di aver liberato il genocidio in qualche modo dà legittimità al governo, anche se poi ci sono una serie di leggi che il governo ha passato e che mirano a punire gli apologisti, diciamo tra virgolette, del genocidio, che ancora oggi sono in vigore e che alcuni dicono spesso vengono utilizzate per ridurre la libertà di espressione e per mettere a tacere le voci critiche del governo. E d'altro lato è un credito che Kagame utilizza anche verso la comunità internazionale, perché, come lo dicevi tu, è vero, forse Kagame avrebbe potuto intervenire prima per fermare il genocidio, ma è vero anche che la comunità internazionale ha una forte responsabilità, perché avrebbe anche ella potuto intervenire prima per fermare il genocidio, non l'ha fatto, ed è anche per questo che spesso l'Unione Europea, la comunità internazionale, la Gran Bretagna e gli USA, che sono tra gli alleati più importanti del Ruanda, sì, spesso chiudono un occhio, diciamo, sugli abusi di potere del governo ruandese. Sì, e fra l'altro il reato di negazionismo molto spesso, come dire, viene utilizzato in chiave revisionistica, perché ovviamente il regime di Kigali tende a cancellare assolutamente quello che fu definito da alcuni un controgenocidio Hutu, perché poi dobbiamo ricordare che ovviamente con l'ingresso di Kagame nel paese le milizie interamue poi scapparono in Congo, ma portarono con sé quasi 2 milioni di civili anche, no? Tutti Hutu. Poi da lì successe quello che successe in Congo e in tutta la regione. Ecco, diciamo che il regime di Kigali, rispetto ad alcuni avvenimenti, come dire, fa fatica a andare a guardare la storia, no? Diciamo che è un argomento di discussione molto delicato all'interno del paese al momento, in Ruanda. E il termine doppio genocidio non sarebbe permesso, certo, in Ruanda oggigiorno. Certo. Fra l'altro, quella dinamica, cioè la fuga degli Hutu nel vicino Congo, i 2 milioni di rifugiati, poi portò alla formazione di FDLR, il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda, che è diventato poi in Congo forse uno dei più grossi motivi di destabilizzazione, ed è sempre utilizzato come leva politica. Cioè si dice: attenzione, c'è il grande nemico, quindi il regime di Kagame non può crollare perché garantisce la pace e la stabilità. In realtà i rapporti con il vicino Congo sono estremamente complessi. C'è un aspetto sul quale vorrei hai solleticarti, che ti riguarda perché sei esperto anche di risorse, c'è questo grande paradosso per cui no, prendiamo il coltan e altri minerali rari, il Congo ne è ricco nel sottosuolo e praticamente non lo esporta, chi lo esporta è, guarda un po', proprio il vicino Ruanda. Ma sì, la situazione resterà, secondo me la situazione resterà tale, voglio dire che non penso che le elezioni cambino il fatto che il Ruanda rimane uno dei posti preferiti di quel contrabbando dei minerali che vengono dal Congo, e che è difficile avere numeri esatti né dati certi, ma è possibile che una parte importante delle ricette, diciamo, degli introiti dall'esportazione di risorse naturali venga giustamente, come dicevi, dai minerali dal Congo. Quello che è interessante per i rapporti con il Congo è anche notare come il fatto che il presidente congolese Joseph Kabila, che il cui mandato era anche terminato l'anno scorso e che ha rifiutato di dimettersi, possa vedere una terza elezione di Kagame come una convalida o un esempio, insomma, che nella regione al termine del mandato i presidenti eletti trovano un modo di farsi rileggere. Ecco. Allora, intanto un ascoltatore ci sollecita sul quello che all'epoca fu la, come dire, la totale assenza della comunità internazionale. Tu giustamente facevi riferimento a una comunità internazionale che permise questo massacro, quel genocidio. C'è qualcuno che ricorda che c'era Clinton all'epoca, ma anche il ruolo francese è stato anche recentemente da varie investigazioni rimesso in discussione. Certamente anche la presenza dei caschi blu non fece granché, è stata una pagina vergognosa per la comunità internazionale. Come spesso accade, teatri africani vengono dimenticati, vengono ritenuti lontani e poi accade quello che accade. Giuseppe Cioffo, stai con noi, perché noi abbiamo raggiunto anche Asierdo Zain Gonzalez, che è un ricercatore dell'Università di Milano, collabora anche con ISPI, l'Istituto per gli Studi sulla Politica Internazionale, che ci ha fatto un piccolo ritratto di Paul Kagame, questo guerrigliero destinato, come qualcuno ha scritto quest'oggi, a essere leader a vita. Senti con noi. Quello che posso dire e che ho appreso dalle notizie o dagli accademici è che Kagame è sicuramente una persona molto carismatica e all'interno del paese la sua popolarità è alle stelle. Basta vedere com'è andata questa campagna. Kagame ha riscosso un grande successo con le piazze, mentre gli altri candidati si sono ritrovati con le piazze deserte. Quindi sì, è una persona carismatica e per molti è come un visionario. Mi è capitato di leggere qualche volta che Kagame è visto come il CEO, amministratore delegato che si occupa dello sviluppo del Ruanda. E questo perché ha fatto moltissimo dopo il genocidio del 1994. Il paese era devastato e martoriato dalla guerra e lui ha ricostruito il paese sia da un punto di vista infrastrutturale, sia da un punto di vista culturale, a livello di istruzione e di sanità. Ha fatto sicuramente molte cose positive per il paese, ma non ci sono dubbi, con lui non c'è libertà. Il Ruanda potrebbe raggiungere livelli migliori nell'ambito della libertà politica e dei diritti dei cittadini. I suoi sostenitori all'estero possono vederlo come una persona visionaria, come l'amministratore delegato che si occupa dello sviluppo, il quale si è sacrificato per lo sviluppo del paese. Ma questa visione è sempre più difficile da difendere, soprattutto dopo il referendum. I suoi principali sostenitori internazionali, come Stati Uniti, Gran Bretagna, o la Commissione europea, come Paesi Bassi, Belgio, tutti coloro che l'hanno sostenuto per 23 anni, si aspettavano che dopo aver servito la patria ed essersi sacrificato per la ricostruzione del paese, a un certo punto avrebbe lasciato il suo incarico di presidente. E ora si rendono conto che questo non sta avvenendo. Lei prima mi ha chiesto quali potrebbero essere i prossimi progetti di Kagame. Non lo so, ma queste elezioni confermeranno la sua leadership. Kagame potrà governare per altri 7 anni e con le modifiche alla Costituzione potrà candidarsi per le prossime 2 elezioni presidenziali, governando per altri 10 anni. E questo fa sì che lo renda capo dello Stato per almeno altri 17 anni. Ed è tantissimo. un ruolo fondamentale lo svolsero in quei tragici tre mesi del 94, ma soprattutto nei mesi prima, perché vi fu, ahi noi, una grandissima preparazione. Beh, un ruolo fondamentale lo svolsero le radio. Perché trasmissioni di fuoco e discorsi di incitamento all'odio erano regolari nel palinsesto delle radio delle Mille Colline, e quello che poi divenne una lotta intestina al paese, quell'andare a sottolineare una differenza etnica che invece nei decenni precedenti era assolutamente più labile, fu tutta un'opera studiata a tavolino, in realtà si dice per preservare il potere di alcuni clan familiari. Quello che è certo, e torniamo all'ultimo capitolo, l'ultima domanda per Giuseppe Cioffo, che si occupa soprattutto anche di relazioni con i paesi europei, no? Tra paesi europei e paesi dell'Africa centrale, c'erano i segnali di quel genocidio, non c'è dubbio, come ancora quelle tensioni latenti tra Hutu e Tutsi, un po' come costruite a tavolino e ingigantite, sono motivo di pericolo. Hai fatto cenno ad alcuni paesi che si interessano maggiormente al, appunto al destino di Ruanda, ma anche Congo e anche Burundi. Fra i partner io citerei innanzitutto gli Stati Uniti, perché hanno bisogno di un partner anche militare, no, nella regione, e Ruanda fa molto, molto comodo. Ci racconti brevemente quali sono le architetture dei rapporti, che rapporto c'è per esempio adesso con il Belgio, con la Francia? Da pochissimo il Ruanda ha quasi del tutto abbandonato il francese, no? C'è stata questa svolta anglofona, sì. E quindi insomma è una dinamica parecchio interessante. Quali sono i partner privilegiati in Europa? Ma dal 2006, come dicevi, il Ruanda ha cambiato la lingua ufficiale straniera dal francese all'inglese, o meglio ha introdotto l'inglese, in parte per accomodare i rifugiati che tornavano dall'Uganda, che è anglofono, ma in parte anche per tagliare il passato, diciamo, con l'amministrazione belga e con l'intervento della Francia, che le prove sono ancora molto confuse, ma pare abbia avuto un ruolo nello scatenare gli eventi tragici del genocidio del 94. Al giorno d'oggi, fino ad adesso, diciamo, uno dei partner più importanti, come dicevi anche, sono gli Stati Uniti. L'amministrazione Clinton, di nuovo vittima di questa sensazione di colpa, nel senso che nel 94 fallì a spingere la comunità internazionale ad intervenire in Ruanda, e si sa che il presidente Clinton stesso e i più vicini a lui sono stati investiti per anni nello sviluppo economico e negli aiuti di cooperazione con il Ruanda. Oggigiorno probabilmente il partner più importante è l'Unione Europea, perché quello che l'Unione Europea è il partner che dà più sì, soldi per lo sviluppo del Ruanda. E infatti delle critiche che si levano anche da noi come Eurac, ma da una serie di ONG internazionali, sono critiche all'Unione Europea, che continua a dare supporto per programmi del governo che ricevono critiche ampissime, certo, per esempio per lo sviluppo di un panorama di media liberi e democratici. Sappiamo che oggi in Ruanda la libertà dei media è fortemente limitata, per la riforma della giustizia, per una serie di iniziative per le quali c'è il rischio che i programmi implementati con soldi pubblici europei non siano implementati nel rispetto, certo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei ruandesi. Certo. Grazie mille Giuseppe Cioffo, analista per Eurac, la rete di ONG che si occupa dell'Africa centrale con sede a Bruxelles. Grazie Giuseppe per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie Giampaolo, ciao. Allora, si chiude così questa lunga pagina tutta dedicata alle elezioni ruandesi. Tra poco vi leggo gli ultimi sms e poi cambiamo decisamente pagina, cambiamo argomento, cambiamo continente. Adesso le informazioni sul traffico, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. We'll be right back. Buona giornata e ben ritrovati ancora una volta da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche Antonio Tale e Elisa Pancaldi a confezionare con me questa puntata di venerdì a Pietro la Corte a dare la musica e il ritmo, una pagina corposa dedicata alle elezioni ruandesi. C'è ancora qualche messaggio al 349-238-6666. C'è come Claudio che riporta indietro ancora la storia africana, la zona dei Grandi Laghi, fino agli anni 60, quando i belgi mettevano zampino e parecchio, come no. Poi c'è chi invece dice, visto che si parla di Africa, la situazione in Zambia è drammatica come la dipinge Foreign Policy in questi giorni. Mi sono perso il pezzo di Foreign Policy. Quello che però posso dirvi è che è recentissimo l'arresto del leader dell'opposizione in Zambia. Però mi sembra un ottimo spunto, e voi sapete che questo programma vive anche di spunti degli ascoltatori, e quindi perché no, parleremo anche di Zambia nelle prossime puntate. Allora, cambiamo decisamente argomento, pagina e continente, andiamo, pensate un po', in Corea del Nord. Andiamo in Corea del Nord perché la notizia di qualche giorno fa, ma è emersa nelle ultime recentissime ore, l'ennesimo lancio balistico del regime di Pyongyang avrebbe sfiorato, ma ovviamente si dice sfiorato in questi casi in termini, come dire, aeronautici, sfiorare non è certamente pochi centimetri, parliamo di 100 chilometri circa. Comunque l'ultimo lancio avrebbe sfiorato un aereo passeggeri dell'Air France con 330 passeggeri a bordo. L'aereo sarebbe passato poi nella zona dove il missile è poi ricaduto 10 minuti più tardi. Air France ha aumentato la zona di sicurezza appunto nell'area, e quindi sostanzialmente per andare nelle destinazioni di Air France dell'Estremo Oriente ora ci si impiega almeno un'ora in più, perché Air France è costretta appunto a compiere un giro di sicurezza maggiore. La prudenza, verrebbe da dire, nel caso degli esperimenti muscolari di Kim Jong-un non è mai troppa, cerchiamo di capirne meglio, e lo facciamo con Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio. Giulia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Ciao, buon pomeriggio a voi. Allora Giulia, il programma missilistico di Pyongyang ormai da, come dire, da parecchi anni te ne occupi e campeggia sulle pagine anche dei nostri quotidiani italiani, e è innegabile una cosa, che l'industria bellica di Pyongyang ha subito un impulso notevole, e dai residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale siamo arrivati a missili balistici che ormai si dice siano in grado di colpire anche gli Stati Uniti. Ci racconti meglio intanto cosa è successo con questo aereo di Air France, anzi cosa non è successo, e poi magari facciamo un quadro un po' più generale su questa passione sfegatata di Kim Jong-un per la balistica. Sì, il test missilistico della settimana scorsa è stato il secondo nel giro di 3 settimane di un missile balistico intercontinentale, quindi un'accelerazione, come dicevi giustamente tu, un'accelerazione progresso tecnologico da parte della Corea del Nord che è evidente sotto gli occhi di tutti. Quindi cade un po' quella narrativa che c'era stata fino adesso del fatto che la Corea del Nord era troppo retrograda e arretrata per riuscire ad avere dei missili fini, insomma, che sono poi possono essere armati con armi nucleari nel caso in cui appunto la tecnologia nucleare riesca a miniaturizzare, no, le testate per metterle sopra un missile. E comunque i due test missilistici dell'ultimo mese ci fanno pensare che appunto Kim Jong-un è tutt'altro che uno sprovveduto, è uno che ha tra le mani una tecnologia molto potente che potrebbe arrivare in America. Quello che è successo la settimana scorsa in realtà è quello che succede sin dal 2014 più o meno, cioè secondo le convenzioni internazionali ogni paese fa un test missilistico deve lanciare un allarme un pochino prima, non mi ricordo se è un'ora o due ore prima, comunque prima del test si dice a tutti i paesi limitrofi: stiamo per fare questo test missilistico, quindi state attenti se state sorvolando l'area o nelle acque limitrofe. Certo. Ecco, la Corea del Nord dal 2012-2014 lo fa saltuariamente, addirittura questa volta hanno mandato l'avviso mi pare 8 minuti dopo il lancio. Perché lo fanno? Lo fanno perché ovviamente i paesi intorno, dal Giappone alla Corea del Sud e l'America, non vedono l'ora di buttarlo giù, di certo, lanciare una contromisura per evitare che appunto il test sia riuscito. Certo. Giulia Pompili, redazione Esteri del Foglio, esperta dell'area, non solo Corea del Nord ma anche e soprattutto Giappone, quando Pyongyang mostra i muscoli in questo modo e fa questi test, e poi la domanda annosa, no? Sta parlando a chi? Sta parlando al mondo esterno, agli Stati Uniti, alle grandi potenze, o sta parlando ai suoi cittadini? C'è una comunicazione, come dire, sia esterna che interna? Come funziona? Sì, la propaganda ovviamente funziona sia dal lato interno che dal lato esterno. Dal lato interno c'è un modo per restare in vita la dinastia dei Kim, che dal 53 a oggi tiene in piedi la Corea del Nord, deve in qualche modo giustificare il fatto che le riforme economiche non hanno funzionato e negli ultimi 20 anni si assiste appunto a carestie e veramente una situazione molto difficile dal punto di vista economico. Per giustificare tutto questo bisogna trovare un nemico all'esterno, e questo nemico si abbatte solamente aumentando la spesa militare e appunto facendo dei test missilistici, anche nucleari, certo, che permetta una tecnologia tale da poter sconfiggere il nemico. Dal punto di vista esterno, la propaganda esterna funziona, perché ovviamente adesso tutti sono molto preoccupati dalla risoluzione del problema. Certo. E funziona anche come grande spot pubblicitario, perché noi sappiamo che la Corea del Nord vende tecnologia militare a vari gruppi di interesse che si interessano molto a quanto la Corea del Nord riesca tecnologicamente ad avere missili balistici, ma anche a corto raggio, per esempio. Sappiamo che li vende poi all'estero, quindi il fatto di avere un ICBM, un missile balistico intercontinentale, è un grosso spot pubblicitario. Ecco. Certo. E se, come dire, le minacce di Trump non preoccupano particolarmente Kim Jong-un, invece c'è qualcosa che inizia forse a preoccuparlo. Questa ricerca è particolarmente interessante, forse gli ascoltatori sorrideranno, però insomma, se non sono i missili a preoccupare, è l'industria pornografica che preoccupa Pyongyang, perché la società statunitense Recorded Future ha fatto una ricerca ripresa poi dall'Asian Correspondent. Pare che l'elite nordcoreana sia una ottima consumatrice di porno, e soprattutto Pornhub. Allora, dobbiamo ricordare, detta così fa sorridere, però allora la Corea del Nord è quasi totalmente isolata, però la leadership, soprattutto in ambiti militari, ha accesso ad alcuni contenuti sulla rete, e questa ricerca ha mostrato che le cose che vanno a cercare gli alti gradi dei militari nordcoreani, ebbene sì, è proprio il porno. Questa cosa, Giulia, viene da sorridere, ma sinteticamente raccontaci, perché ci spiega tanto di questo paese, no? No, è fondamentale, perché appunto in questi giorni si parla tantissimo di regime change, per esempio, cioè Trump e l'amministrazione comincia a riparlare di regime change. Ora, il regime change funziona così, che si cercano dei gruppi di interesse che hanno appunto l'interesse di cambiare la leadership. Sì. La Corea del Nord da ormai decenni è uno degli stati più chiusi al mondo, e il fatto di non riuscire ad avere una comunicazione diretta con l'interno è uno dei motivi per cui vivono in questo mondo quasi orwelliano, no? Nessuno parla con l'esterno, tranne in alcune zone di confine, sì, con comunicazioni con la Cina, però insomma non si riesce a parlare direttamente con loro. Questo studio qua dimostra invece che c'è una parte della leadership che ha degli usi e delle abitudini molto simili alle nostre, e che soprattutto ha accesso al nostro internet, certo, non all'intranet, certo, nordcoreano, ma all'internet dove si vede Pornhub. E significa che c'è una parte della popolazione alla quale possiamo spiegare che cosa bisogna fare per evitare che appunto, certo, si finisca a fare la guerra con la Corea del Nord. Sì, sì, no, ma fa sorridere quello che non possono le minacce militari, gli armamenti bellici. Beh, quello lo fa l'industria del porno, altrettanto potente. Grazie mille, Giulia Pompili, per essere stata con noi, redazione Esteri del Foglio. Giulia, buona giornata, buon lavoro. Questo Pietro l'hai fatta apposta, hai messo un effetto di chiusura. Allora, era Giulio Pompili della redazione Esteri, mancano pochi secondi, però Pietro, abbiamo il tempo di lanciare i titoli di coda. Allora, con i titoli di coda ringrazio Antonio Tali e Elisa Pancaldi che hanno scritto con me questa puntata, Pietro La Corte che le ha date la musica e il ritmo giusto. Vi ricordo il meglio di Nessun Luogo sabato alle 7, domenica alle 16. Poi da lunedì di nuovo, dopo la replica delle 6 del mattino, saremo in onda alle 16 ancora una volta in diretta. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi ricordo che Nessun Luogo è lontano.